24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Immaginate un mondo senza Google. È considerato il più bel posto di lavoro in America. Resta una macchina capitalistica dall'ingranaggio perfetto. L'intangibile materia che ha fatto di un motore di ricerca un motore di cambiamento. Ora vi divideremo in squadre. Alla fine dell'estate solo una squadra conquisterà un contratto a tempo pieno. L'altro 95% di voi non lo avrà. Buongiorno, la rete, l'innovazione e la rivoluzione digitale. Dietro a questa realtà entusiasmante non ci sono solo progresso e nuovo, ci sono anche dei problemi da risolvere, come quello affrontato in qualche modo con la proposta di legge dell'onorevole Boccia, inserita nella legge di stabilità, leggermente modificata questa notte, la cosiddetta web tax, una tassa per colpire gli utili guadagnati dalle grandi società che ad oggi, anche se regolarmente, non pagano quasi le tasse. In Italia si fanno ricavi e utili, ma non si pagano le tasse. Ecco, Stefano Parisi, buongiorno, presidente della Confindustria Digitale. Ecco, perché non pagare le tasse vuol dire difendere la modernità? No, non è così. Appunto, non è, però sembra. Non è questo il tema, nessuno l'ha mai detto. No, le tasse vanno pagate, ci mancherebbe altro. Quello che noi diciamo è che questo tema è un tema molto importante, perché certo, è un tema che non riguarda ovviamente solo l'Italia, certo, è un tema in cui grandi piattaforme mondiali operano in molti paesi, non potrebbero mettere stabile organizzazione in ogni paese in cui operano e ovviamente possono scegliere, perché sono liberi di farlo, il loro paese, gli Stati Uniti d'America, gli consente di mettere le sedi dove vogliono, e questa è una delle azioni di promozione che gli Stati Uniti d'America fa verso l'economia digitale, e possono mettere le sedi dove loro preferiscono e ottimizzano ovviamente il loro profilo fiscale. Certo. Ora questo è un problema europeo, è un problema europeo. No, però non solo, è un problema mondiale, pensi che addirittura se ne sta occupando l'OCSE. Sì. E l'OCSE sta preparando una policy per definire un regolamento intorno a questi temi, e questa policy sarà pronta a settembre. Ecco, dottor Parisi, però noi voglio farle una domanda di questo genere. Per esempio, Facebook nel 2012 ha avuto profitti per 1,7 miliardi solo in Europa e ha pagato l'1 per mille di tasse in Irlanda. Il resto viene girato alla Facebook Holding Limited, con sede alle Cayman. È tutto legale, perché c'è questa promozione verso le start-up, in qualche modo, di cui parla lei. Però lei non trova che sia normale che a regime un paese chieda le tasse in corrispondenza degli utili fatti in quel paese? Mi sembra una cosa che banalmente normale. Sì, certo, ma infatti, ma guardi che quello di cui si sta parlando è una cosa che va fatta. Ci sono due temi. No, ma questo. No, perché secondo me è il titolo web tax che è brutto, perché sembra che si voglia tassare il moderno, invece non c'entra niente. Però, scusi, però prego. Sicuramente questo è giusto, nel senso che va fatto, ma va fatto in un contesto come minimo europeo, certo, se non addirittura globale, certo, e l'Italia deve, su alcuni temi, in particolar modo sul tema dell'IVA, la partita IVA, sì, aprire la partita IVA, certo. Deve essere, ecco, questa cosa che è stata messa in Parlamento sul fatto che per fare transazioni in Italia bisogna avere una partita IVA in Italia, è una cosa fuori dal mondo, lei lo capisce? Cioè, una cosa che non esiste in nessun paese europeo, e questa cosa non può che essere vista nel contesto europeo. Poi c'è il tema specifico, scusi, delle imposte sul reddito, sì, di Google, su cui esiste il ruling internazionale, così si chiama, cioè c'è la possibilità che l'Agenzia delle Entrate chiami Google e gli dica: scusa, adesso siediti qua e ragioniamo su come tu paghi. Vabbè, diciamo che per fortuna non c'è bisogno di fare una legge. Forse non c'è bisogno di fare una legge, ma c'è bisogno di fargli pagare le tasse. Olanda in Francia l'ha fatto e stanno trattando. Ora il tema, però, scusi, io lo dico perché noi ci siamo messi contro questa cosa. Perché non vogliamo che l'Italia faccia una brutta figura a livello europeo. Sì. Bene. E infatti anche il nuovo segretario del PD dice questo, non dice non bisogna farlo. No, dice, senta, però scusi, però lei cita la Francia, io le cito Fleur Pellerin, il ministro dell'innovazione e dell'economia digitale, dice che è urgente costruire dei campioni europei del digitale. L'Europa del digitale è una sfida vitale per la nostra economia, i nostri posti di lavoro, la nostra sovranità. Quindi è l'Europa insieme che è, insomma, no? E io però io qui vengo, scusi, questo è l'altro tema. Perché chi promuove questa legge, il presidente Boccia, cosa dice? Dice questo perché ci sono tante aziende, tante piattaforme europee, italiane, che cercano di barcamenarsi, usa questo termine, sul web e non ci riescono. Invece grazie a questa cosa adesso ci riescono. Non è vero. Io ho un'azienda, la mia azienda è una piattaforma di distribuzione, si chiama Cile, una piattaforma di distribuzione di film, esattamente come dei giganti americani. Sì. Il mio problema è di avere le condizioni che i giganti americani hanno nel mondo, non che il gigante americano paga più tasse in Italia. Perché no, ma sono due problemi diversi, ma sono due problemi che non si possono eludere a vicenda. Cioè non è che per risolvere uno allora non paghiamo le tasse. Perché questo no. Io non ho detto che non dico che l'ha detto lei, però per adesso era così. Per adesso era così, nei fatti. Ho paura che ci sia, come spesso succede in questo periodo in Italia, un po' di populismo e un po' di superficialità. Da tutte le parti. Allora, da tutte le parti. Oggi dire facciamo pagare le tasse alle lobby, potentissime lobby multinazionali. Sono stupidaggini. Il tema non sono stupidaggini, esiste, pagarle. Esiste un tema grande come una casa che dove è tecnico come far pagare le tasse sul web, già che c'è una perfetto, e questo l'abbiamo detto. E poi c'è un problema di dimensione del problema, cioè di qual è il livello a cui porre la regolamentazione. Qual è il livello? Aspetta, poi c'è sicuramente europeo. Ecco, poi appunto, c'è un terzo tema molto importante. Se dobbiamo noi europei forse un problema di regime fiscale sul digitale, abbiamo da vedere tante cose, non solo quante tasse paga Google, Amazon, ma anche non le pagano, quindi non c'è problema. No, appunto, non solo far pagare allora le tasse a Google e agli altri, ma anche, soprattutto, per quale motivo oggi in Europa il libro fisico paga il 4% di IVA e il libro digitale... questo è un altro discorso ancora. No, Però se Boccia voleva fare una riflessione sul regime fiscale digitale, già che dobbiamo spingere sull'agenda digitale, poteva fare un ragionamento un po' più vasto, nell'ambito del quale fare tutto quello che serve per promuovere l'economia digitale. Non è che l'unico, sembra che l'unico problema in Italia è di come far parte. No, non è l'unico, è un problema. La ringrazio, dottor Parisi, grazie mille. Le posizioni sono molto diverse, lo sentite, divaricate. Per esempio, l'ingegner De Benedetti, presidente del gruppo L'Espresso, alla nostra domanda ha risposto così. Ingegner De Benedetti, lei si è detto favorevole alla web tax, perché? Ma perché mi sembra che la Google sia un'azienda stupenda che ha portato molto beneficio e innovazione nell'ambito della navigazione su internet e in genere della conoscenza, ma non vedo per quale ragione debba essere esentata dal pagare le imposte quando ha un'organizzazione stabile in Italia con la quale realizza fatturati e utili imponenti, e così come le paghiamo tutte le imposte non si capisce perché non le paghi Google piuttosto che Facebook piuttosto che Amazon. Certo, perché in realtà poi i posti di lavoro sono pochi e i soldi, le tasse sono trasferite tutte all'estero. I posti di lavoro in Italia sono l'organizzazione di vendita che evidentemente è modesta come il numero di persone, però le tasse sono tante, all'estero, ma neppure all'estero pagano imposte, insomma è una costruzione che non è evasiva ma è elusiva, legalmente, fiscalmente lecita, ma profondamente ingiusta. Certo. Quindi Renzi ha torto su questo punto. Ma io penso che sia stato mal consigliato su questo punto. Sa, rinviare il problema a dire risolviamolo in Europa mi sembra un po' buttare la palla in tribuna. Ecco. Grazie ingegnere, grazie mille. A lei. Ecco, onorevole Boccia, proponente della web tax, presidente della Commissione Bilancio della Camera, al centro di questo dibattito. Allora, questo problema Intanto dell'Europa, lei ha sentito, immagino, l'intervento precedente, è un problema reale o no? Intanto avete cambiato qualcosa questa notte, mi pare, no? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ho ascoltato con attenzione le parole di Parisi e io mi auguro che non si faccia disinformazione, così come ne è stata fatta in questi giorni su questa, che è una cosa molto molto seria e che non riguarda, guardi, solo le imposte che paga un'azienda, riguarda un'idea di fisco moderno al tempo dell'economia digitale. E ho la sensazione che si faccia disinformazione per buttare noi la cerchiamo palla di fare chiarezza, cerchiamo di facciamo fare chiarezza. Sì, questa notte abbiamo, secondo me, rafforzato questa imposta, che è un'imposta sacrosanta, equa ed è di giustizia fiscale, e l'abbiamo rafforzata eliminando il commercio elettronico e mantenendo la partita IVA, perché ribadisco è sacrosanta. Dice Parisi che la partita IVA è anacronistica. Ma io non capisco perché, se c'è se una multinazionale apre uno stabilimento, ha un opificio industriale, la partita IVA è obbligata ad aprirla ed è stabile organizzazione, e magari fa un decimo del fatturato di Google, per esempio. Se quell'opificio, quello stabilimento è immateriale, sono degli uffici con una piattaforma tecnologica che è all'estero, ma che si appoggia. Sì, abbiamo dato i dati, infatti, inutili, poi italiane, vengono tutto allora, fuori. Questa roba non sarebbe stabile organizzazione, perché il tema è tutto qui. Che cos'è stabile organizzazione al tempo dell'economia digitale? Esatto. E chi dice che non è stabile organizzazione, a mio avviso, dice il falso. C'è una direttiva comunitaria che è del 2006 e che in realtà viene spostata di volta in volta in avanti il giorno, il termine dell'applicazione di questa cosa, cioè che cos'è la stabile organizzazione. Vabbè, diciamo che il problema è da spostare, questo effettivamente mi sembra assodato da tutti gli interventi, è da affrontare in Europa, perché è l'Europa digitale che deve avere una sua completezza di regolamentazione e anche di legislazione per poter rispondere al mondo che cambia. È normale che il diritto arriva sempre dopo la realtà, no? E sì, quindi, Minoli, però in Europa noi dobbiamo affrontare tanti altri temi, anche la simmetria fiscale che c'è in Europa tra i diversi paesi su diversi comparti va riallineata. Non per questo chi la pensa in maniera diversa da noi, ecco, non paga le tasse. Ma che cosa avete cambiato questa notte? La trattativa? Non c'è stata nessuna trattativa. No, ma cosa avete cambiato? Guardi, intanto perché la norma era stata approvata, quindi c'è cambiato, immutabile. No, era stata approvata, certo, in commissione, e poi in serata abbiamo chiuso con una piccola modifica, e il commercio elettronico non rientra tra i comparti che hanno l'obbligo di partita IVA. Senta, posso fare una domanda? Ma non è stato un errore di comunicazione chiamarla web tax, che nel mondo moderno sembra che uno voglia tassare la rete, invece non c'entra niente la rete. Non l'ho mica chiamata io web tax. Guardi, io penso che sia stata fatta un'operazione di disinformazione, prima con questo automartirio, diciamo, sì, perché si è chiamata, o l'hanno chiamata, Google Tax. Beh, quello addirittura una follia, certo. Di non chiamarla così. Poi hanno iniziato a chiamarla Google, web tax, è un'imposta al tempo dell'economia digitale che pagano le multinazionali onorevole, pagano le imprese italiane, voglio chiarirlo, le imprese italiane non la pagano, non la paga chi naviga in internet, perché gli italiani le imposte le pagano già. Senta, 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 il nostro SMS. Resta un fatto che, come ha detto anche l'ingegner De Benedetti, mi pare che si sia aperto un bel fronte dentro il PD fra lei, diciamo, in qualche modo, che è quello che ha sponsorizzato questa legge, e il segretario Renzi, che ha detto no alla web tax. Come la mettiamo? Ma non so se si è aperto un fronte. Beh, insomma, l'italiano è italiano. Sì, guardi, io questa proposta, che tra l'altro poi ha trovato un consenso... Non svicoli. No, ora non svico, ora arrivo. Intanto, guardi, voglio dirle, questa non è un'iniziativa del governo, è stata un'iniziativa parlamentare approvata a stragrande maggioranza e nessuno di noi si è preoccupato di se fosse utile per... Vabbè, Renzi è stato mal consigliato, no, allora, ha fatto dubbio, troppo in fretta. No, la penso come De Benedetti, a mio avviso, non ha avuto il quadro dell'emorragia di miliardi che quotidianamente, ecco, escono dalle tasche dei risparmiatori di molti paesi. Certo. L'Italia ha un'emorragia clamorosa. Guardi, sì, i dati sono clamorosi, ne abbiamo dati prima un pochino, sì. Ecco, volevo, Mario Secchi ha una domanda anche buttafuoco, che sono qui con me. Parte che io sono d'accordo su una restrizione fiscale sotto questo punto, perché ci sono quasi 2 trilioni di dollari a cui gli americani stanno andando a caccia in questo momento, perché sono usciti dall'America e li vogliono far rientrare, quindi non capisco perché non lo debba fare l'Europa e l'Italia, a meno che non ci consideriamo più liberi e più scemi. No, la domanda è molto semplice: se questa operazione coinvolge anche la tutela del diritto d'autore, che secondo me è un altro punto. Assolutamente sì. Perché cioè, se parliamo di distruzione di lavoro, c'è anche questo. Non c'è dubbio. Ed è colpevole il ritardo con il quale il nostro paese è approcciato a questo tema, ed è ancora più colpevoli sono quelli che dicono lo risolveremo quando saremo tutti d'accordo. Ne parleremo ancora, perché tutti d'accordo sarà un po' difficile. Pietrangelo? Buongiorno, vorrei semplificare e portare un po' di zizzania, perché Renzi contro Boccia mi spinge a una domanda. Al di là del fatto di essere stato mal consigliato, l'idea che le multinazionali che fanno dei fatturati ingenti, che entrano con la loro potenza immateriale nella materialità dell'economia italiana, l'idea che Renzi si sia scagliato contro la sua legge, la dice lunga su che cosa? Su un'idea sua della sinistra succube a questa macchina perfetta del capitalismo? Si è sbagliato, basta. Ma guardi, se fosse un capitalismo che investe, io lo capirei anche, ma questo è un capitalismo che non investe un euro in Italia. E quindi è ancora peggio la posizione di Renzi? No, io... Diciamo, ci confronteremo con Renzi, il Partito Democratico da questo punto di vista, come lei sa, se c'è una cosa che consente a tutti quella di confrontarsi, quindi col segretario ci confronteremo e capiremo quali sono i motivi. Onorevole Boccia, possiamo aspettare ancora un secondo che c'è Franco da Chieti e vediamo se ha una domanda per lei. Buongiorno. Rapido. Buongiorno, io sono un rappresentante delle piccole e medie imprese, sì, perché faccio parte della Confesercenti. Okay. Voglio dire, domanda, che noi siamo esterrefatti di sentire un dibattito ancora nel 2000, perché le piccole e medie imprese devono rispettare tutte le regole. Appunto, è quello che stiamo dicendo. Tra l'altro anche regole che sono legate ai saldi, alle vendite promozionali, sì, noi la domanda... le dobbiamo rispettare, loro non le devono rispettare. Esatto. Mi sembra logico. No. Gli Stati Uniti le tassano, le vogliono tassare le vendite online, nell'e-commerce. Il Senato è già passato la legge, speriamo che passi anche alla Camera. Grazie. E anche alla Camera italiana. Buongiorno. Grazie Franco, vabbè, abbiamo sentito un'altra opinione, stava finendo di rispondere sul conflitto fra Renzi e Boccia. No, intanto il radioascoltatore ha detto una cosa che pensano tutti. Sì, esatto. Basta andarci in una fabbrica dell'artigiano per capire che non si capisce perché loro debba pagare tutto. Anche un po' tanto. Qui stiamo parlando 68% di... per l'esattezza. No, infatti uno dei vincoli che abbiamo posto sulla norma è che il gettito dovrà andare a riduzione del cuneo fiscale. Però vabbè, quindi bisogna che Renzi cambi idea, no, e si faccia consigliare io meglio. Io penso che sia utile confrontarsi nel partito. Vabbè. Mi auguro, visto che... No, dato che è stato pubblico. Io non penso, non penso che ci sia uno scontro. Lo trasformerei in un confronto, ma il confronto lo si fa ascoltando le ragioni degli altri e soprattutto approfondendo i temi. Grazie onorevole Boccia, buon lavoro. La notizia in 3D come sempre è stata curata da Sara Tardelli. Ricordo 800 24 00 24, sms 349 238 6666, pubblicità. Mix 24. Ma è venuto che ballare l'elettricista. Pietrangelo? Oggi, seguendo la prima parte, dove abbiamo ascoltato le ragioni e le sragioni intorno alla tassa sul web, che non è una tassa sul web, che non è una tassa sul web, ma è far pagare ai giganti le tasse, ma far pagare appunto alle multinazionali le tasse, esco al naturale e me la cavo con Karl Marx, che diceva: tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria, e tutto ciò che si è dissolto nell'aria ed è quello che passa attraverso le onde, attraverso le trasmissioni, attraverso internet, attraverso tutto ciò che è immateriale, invece sta determinando il materiale. Ho scelto apposta L'elettricista di Giorgio Conte, perché se vi dovete divertire ci vuole l'elettricista, ci vuole l'arbeiter, ci vuole facciamo l'applauso questa volta. E quindi, Mario, tu che ne capisci di capitalismi perfetti? Non esiste il capitalismo perfetto. Però per Renzi c'era, vedi? Hai visto cos'era la sua sinistra? No, capitalismo perfetto. Io Hai detto dei numeri prima che hanno impressionato, legato all'elettricista. Allora, è l'elettricista che anche quello non è perfetto. La storia della cosiddetta tassazione dei giganti dell'high tech, perché questo è importantissima. Io invito tutti gli ascoltatori che hanno a cuore questo tema, e anche chi ne sta discutendo in rete, a leggersi attentamente i documenti delle audizioni fatte dal Senato americano, dove traspare l'imbarazzo dei testimoni di questi grandi giganti dell'economia, che sono bravissimi e noi ci auguriamo che crescono ancora di più, ma che di fatto eludono attraverso complicati sistemi di architettura fiscale all'estero le tasse. Solo un esempio: una filiale Apple in Irlanda ha fatturato un pre-tax di 22 miliardi e aveva pagato tasse per 10 milioni di dollari. Ripeto il numero: gli americani sono a caccia di 2 trilioni di dollari, cioè 2.000 miliardi di dollari fatti all'estero, che devono essere tassati in patria. Gli americani non sono dei furiosi tassatori. La tassazione media del corporate tax, così si chiamano, è 35%. In Italia, cari signori che non le volete pagare, la tassazione media è 68% per le imprese. Svegliatevi! Bolle. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con lo solo... Vabbè, andiamo con il nostro tormentone, aspettiamo la legge, arriverà. Io prima o poi registro Crisafullico sul sorteggio come miglior sistema elettorale e togliamo una volta per tutte stu Benigni. Allora, beh, chi tratta con chi? Il tema è questo. Si è scoperto, ma era anche logico, che il PD, quindi Renzi, attraverso i suoi emissari, chiamiamolo così, Nardella in questo caso, che è stato ospite varie volte da noi, e così via, sta trattando per una riforma elettorale con Renato Brunetta. Niente di anormale, direi. Fa parte della logica politica. Il gioco si apre. Il gioco si apre. Chi vuole contribuire contribuirà, eventualmente Grillo si chiama fuori, finiti per esempio. Sono finiti gli steccati, mi pare una cosa positiva. Perché mi pare che lì ci sia un punto, bisogna fare una legge elettorale nella quale sia chiaro che chi vince ha vinto. Ma non ci sono dubbi, perché sennò ritorniamo nella condizione di partenza di adesso. Certo, no? Quindi un gioco politico dell'oca in questo caso. L'ipotesi, insomma, si sa, è un Mattarellum rettificato con premio di maggioranza, poi questo lo appureremo. Intanto ci sono cose importanti però in economia da seguire tra oggi e i prossimi giorni. E sentiamo... Mi chiamo Jordan Belfort. L'anno in cui ho compiuto 26 anni ho guadagnato 49 milioni di dollari, che mi ha fatto molto incazzare, perché con altri tre arrivava a un milione a settimana. Allora, è il trailer di Wolf of Wall Street, un film regista di Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio tra i protagonisti. Per introdurre che cosa? È una settimana prefestiva, però importante per le banche centrali. Oggi c'è l'ultima riunione del Comitato di Politica Monetaria della Federal Reserve, come sapete tutti. tutti si aspettano una rettifica ulteriore sulla politica dell'acquisto di bond da parte della Banca Centrale Americana. Vediamo, in realtà insomma, a Washington vorrebbero non toccare nulla, anche se sarà difficile non dargli un tagliettino. Vediamo che cosa succede, però non dovrebbe avere, secondo le stime fatte dagli analisti, grande impatto per il momento. Sai, la politica monetaria è come un elefante in una cristalleria, come ti muovi fai danni. In India, segnalo, la banca centrale dovrebbe alzare i tassi per la terza volta consecutiva per cercare di tenere a freno invece l'ondata inflazionistica. È interessante l'India perché, come sapete tutti, è uno dei treni della crescita mondiale sul quale noi siamo per forza agganciati. E poi in giro che cosa c'è? Guerra, navi da guerra. Nel Mar della Cina, divertente tra virgolette, la definisco divertente dal punto di vista giornalistico, insomma, sfiorata una collisione lo scorso 5 dicembre tra due navi da guerra, una cinese e una americana. State attenti da quelle parti, noi la seguiamo come ogni volta che possiamo darne conto, perché lì questa disputa territoriale in quell'area là non è il massimo. C'è un po' di Europa, da segnalare. Piace l'inno alla gioia, Giovanni? Non male. L'inno alla gioia di Beethoven, tu lo sai che lui aveva così in dispitto la pronuncia che evitava di farla risultare Beethoven e si fece sordo. Proprio per questo. No, ma non è che si fece sordo, adesso con tutte le leggende. Ma che leggende? Questa è una pagina meravigliosa tratta dal libro di Pierino Buscaroli. Ma sì, ma non è che si fece sordo, diventò sordo. Pur di non sentirli. Sì, ma perché non pronunciavano male. Insomma, comunque, in realtà, quest'inno alla gioia non va bene. Lo non cambiamo. Ah, ecco. Ok, Giovanni ci guarda, Scusa, e si sta però, chiedendo era meglio cosa... quell'imperiale. Sì, aspetta. A me piace questo perché lo suonavano, sai, nel Caccia Ottobre Rosso. Scusa, Giovanni ci sta guardando e si chiede: ma io con chi sto lavorando? No, infatti ogni tanto me lo chiedo, no? Dice forse è una discussione da bar. Ma tu lo sai che a me mi arrivano tanti tweet di gente che invita Radio 24 a licenziarmi. Ah sì? Vorrei far notare che non sono assunto, quindi è inutile che mandate queste cose. Sprecano abbastanza tempo. Almeno con noi. Allora, siamo passati dall'inno alla gioia all'inno russo, perché c'è un report di Saxo Bank, insomma non è una piccola banca, è una cosa seria, che dice: se le cose vanno così di questo passo nell'economia europea, prima o poi quelli della Commissione si riuniranno tutti insieme e decideranno di mettere una tassa sui ricchi, su quelli che guadagnano più di 90.000 euro. È un forecast, cioè sono previsioni, certo, eccetera, però è interessante. Dice: l'Europa va verso un modello economico in stile Unione Sovietica. La cosa ha fatto molto perché? Discutere perché secondo loro c'è un'eccessiva tassazione. In effetti la tassazione media nei paesi anglosassoni è bassa, però lì le tasse cercano di farle pagare a tutti. Questo è il punto fondamentale della faccenda. Prego. È un'idea per mandare Renzi. Ah, basta, Salamini. Il salamino, dai. A musica. Allora, in realtà niente salamini ancora, perché il puttafuoco ci ha fatto un cambio in corsa. Abbiamo Popov, i cosacchi, perché la domanda che vi rivolgo, e magari rivolgiamo anche agli ascoltatori, è: ma Putin si è comprato l'Ucraina o no? No, no, aspetta, è un'unica patria. E fammi dire, gli ha dato 20 miliardi di aiuti, gli ha fatto lo sconto sul gas. Ha fatto tutto. Come i tedeschi, 800 dell'Ovest. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238. Io lo voglio sapere dagli SMS ascoltatori, se Putin si è comprato l'Ucraina o no. Lo vedremo. Comunque, era Popov. Cediamo i salamini. Ecco i salamini. Allora, facciamo una cosa. Dedicato a chi chiede il mio licenziamento, faccio sentire una cosa che non si può fare. Ecco, questa è una cosa che non si potrà più fare. Perché? Lo facciamo di nuovo? Ma che? Allora, non si può più fare. E oggi leggo un delizioso articolo di Gian Arturo Ferrari sul Corriere della Sera. Linee guida... Speriamo che non sia troppo lungo. Linee guida sulla parità di genere. Esagerazioni politicamente corrette. Perché quella cosa che avete sentito prima non si potrà più fare. Perché? Perché? Perché dice che certe parole non si possono dire, quella di prima, no? Puppi non si potrà più dire. Perché è stato varato queste linee guida per l'informazione rispettosa delle persone LGBT ed è stabilito da l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, col patrocinio, ahimè, dice Gian Arturo Ferrari, ma io lo sottoscrivo, ahimè, del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. In sostanza? In sostanza non si può più fare quella cosa che abbiamo sentito prima. Vabbè, tutto lì, si sono riuniti ma per no, quello. È una cosa complicatissima, per cui bisogna dire sta cosa che si dice LGBT. Ora, siccome io non ho pratica demoplutocrate, da demo plutocrate, non conosco le lingue della demo plutocrazia, mi affido a Mario Secchi, no, che saprà dire esattamente che cosa non significa. Non ti sciolgo l'acronimo. Vabbè, perché resta è il problema. Roba, perché è una roba folle. Però il problema c'è effettivamente. Delle parole, cioè, da usare, quelle no. Sì. Cioè, per esempio, perché non si può più dire saffico, che è una parola bellissima. Vabbè. Perché si riferisce alla poetessa, però per l'ultima volta un frammento di quella cosa che non si può più sentire, perché non la sentiremo mai più. Questa volta non ho capito neanche io. Se vuoi la spiego. No. Non si riferisce un delizioso animaletto del mare. Ho capito. Il polpo. È una roba incredibile, sì. Mi sento offeso e arrabbiato perché non so veramente di cosa vogliono da me. Io non so nemmeno come si fa a truccare una partita, ma veramente, adesso vediamo. Io non so nemmeno come si fa, se tu mi dici come si fa a truccare una partita, io non lo so da dove cominciare, è questo che non riesco a capire. Questo è Rino Gattuso. E io non ci credo, te lo dico. E io neanche, naturalmente stiamo tutti in attesa, però Rino Gattuso sarei veramente molto molto sorpreso, sì, una persona io. Che è stato un modello per molti è giovani. Un interrogativo che credo, sì, abbiano anche i nostri ascoltatori in tanti. Sì, lui fece anche quello spot bellissimo sulla Calabria, mi ricordo. Sì, era un testimone, no, sì. No, veramente una cosa non riesco a crederci. Dove dobbiamo andare? Perché un'ultima cosa prima di dare la viabilità a Torino, la telenovela di Torino dell'IFI, dell'Exor, che vedeva coinvolto l'avvocato dell'avvocato Franzo Grande Stevens, se ne è parlato tantissimo, si è conclusa con una cosa curiosa, l'allievo dell'avvocato Michele Briamonte ha difeso in Cassazione e ha vinto, e questa è la conclusione di una lunga telenovela viabilità. Mix 24. Siamo tornati in diretta, sono le 9.45, 54 secondi, 800 24 00 24, il nostro numero verde, 349 238 66, l'SMS per chi vuole intervenire sul tema della televisione, dov'era il canone ieri sera, cioè che cosa vi è piaciuto o no ieri sera in televisione. Al telefono professor Giorgio Simonelli, buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Lieto di ritrovarla. Allora, dov'era il canone ieri sera? Ieri era un po' nascosto, ma era ancora una volta su Sky Arte, che sta proponendo generi anche vari, e ieri proponeva in replica una fiction che andrà avanti anche per qualche settimana, che si intitola Parade Stand, è una fiction inglese, una coproduzione HBO e BBC, quindi tenetevi forte, HBO e BBC, i due prestigiosi enti produttivi, certo, mondiali di televisione. Una storia ambientata all'inizio del secolo nell'Inghilterra, Inghilterra, dove un ricco signore di idee conservatrici trova nella sua vita, lui ha già una vita sentimentale un po' complicata, incontra niente proprio di meno che una suffragetta molto carina, e quindi vedremo come andrà avanti questa storia. La segnalo perché c'è addirittura alle spalle la scrittura di Tom Stoppard, quindi uno dei più grandi drammaturghi scrittori viventi. E qui è interessante la cosa, perché noi parliamo sempre di alternative di fiction tra la fiction italiana e la fiction americana, e trascuriamo la fiction europea. La fiction europea, certo, di cui bisognerebbe occuparsi un po' di più. Lo dico anche per la critica, che mi sembra che sia un po' poco attenta a queste cose. Sempre si dice, ah, le grandi fiction, le grandi serie americane, i polizieschi americani, Lost, chi più ne ha più ne metta. Invece, come lei sa, il canone prevede che possano essere pagati dal canone i prodotti europei, i prodotti di fiction europei. Cioè l'Europa sostiene in qualche modo la produzione europea anche. Ecco, sì, bisogna sostenere questa produzione perché, a mio parere, è anche di grande qualità. Non è così specialistica, non è così di nicchia. Faccio un altro esempio. Settimana scorsa è andata in onda, in due puntate, su Canale 5, quindi su una generalista, una bellissima storia intitolata semplicemente Una famiglia. La famiglia in questione è la famiglia che ha costruito e gestito per tutto il secolo il grande hotel Adlon di Berlino, quello vicino alla porta di Brandeburgo, e attraverso la storia di questa famiglia, i suoi amori, i suoi fallimenti, i suoi tradimenti, si costruisce la storia di tutta la Germania. Sa quei grandi romanzi che piacciono a buttafuoco, no? Che certo, passa le serate invece che guardare la televisione a leggere. Dopo sentiamo romanzi. Se ha guardato ieri sera la televisione. No, posso dire, scusi professore, posso dire cosa sto facendo? Mi sono iscritto un corso CEPU speciale per diventare un sincero democratico e mi hanno dato da vedere tutte le puntate di Che Tempo Che Fa. Ieri questo ho fatto. È un corso di rieducazione vietnamita. Ecco, queste cose le facevano in Vietnam. Ma quelli vabbè, così ma fanno. Approfittiamone. Mario, tu cosa hai visto ieri sera? Dove era il canale per te ieri sera? Non ho guardato la TV, neanche tu, domani. Neanche tu. No, ma io devo leggere, devo recuperare tutti i libri perduti. Professore, ma una domanda poi continua sulla fiction europea, ma lei ci crede questa cosa di Gattuso? Lei è tifoso, no? Se non sbaglio. Assolutamente no. Non ci crede. Neanche lui. Assolutamente no. Sarebbe una sorpresa per tutti, veramente. No, ma non può essere una sorpresa. No. Assolutamente un equivoco. Non può. Ringhio non può aver fatto assolutamente nulla. Mi sa che è milanista. Se Ringhio avesse scoperto che un compagno o un avversario aveva truccato una partita, l'avrebbe rincorso per tutto il campo a calci nel sedere. Davvero, speriamo che sia così. Speriamo che sia così. L'inchiesta va avanti e intanto va avanti anche lei con la valutazione della fiction europea da fare. No, intanto scusi professore, ricordo 800 24 00 24 349 238 6666 il nostro SMS per chi vuole intervenire. È un aspetto molto importante della produzione, perché appunto c'è uno snobismo diffuso, no? Che dice dobbiamo fare come gli americani, guardate come sono bravi gli americani. Ecco, io dico che se invece guardassimo un po' più vicino anche a quello che fanno gli inglesi, a quello che fanno in questo caso i tedeschi, a quello che fanno talvolta i francesi, forse insomma una fiction europea sarebbe in grado di... Posso fare un'obiezione? Sì. Professore, obiezione, lei mi dirà respinta, però la fiction europea non disegna l'immaginario, o almeno non riesce a farlo nella maniera così diffusa come ha fatto per esempio uno degli ultimi prodotti di questi anni, Mad Men, tanto per dirne una. E perché? Lo chiedo a lei. Perché io le dico che non sono d'accordo e quindi non posso rispondere alle sue obiezioni. Bene. Perché secondo me le fiction europee riescono a disegnare un immaginario, solo che noi siamo vittime di questo pregiudizio secondo cui l'unico immaginario possibile è quello costruito a Hollywood. Se, e dintorni. Professore Massimo da Roma, sentiamo Massimo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Io Dica. Faccio fiction da circa 15 anni, sì. Anche con abbastanza successo, sì. Notevole successo sulla Rai ho fatto. E mi trovo d'accordo con il professore. Lo credo. Che noi perché noi siamo molto chiusi su noi stessi, un po' autarchici come fiction. Guardiamo a Padova piuttosto che a Verona, ma non guardiamo negli orizzonti europei, che invece sono il nostro mare forte nostro, dove potremmo fare della fiction straordinaria. Abbiamo tutte le qualità per farlo e abbiamo un immaginario ormai falsato, perché poi voglio dire, ce lo continuiamo a dire, che è la fiction americana, che peraltro è bellissima, non dico di no, però noi potremmo fare un grande salto di qualità, perché ne abbiamo tutte le qualità. E allora, siete produttori, la RAI mi sembra che faccia anche delle grandi coproduzioni interessanti su questo piano, e la strada è quella, bisogna percorrerla con coraggio, ma con coraggio imprenditoriale, cioè bisogna rischiare. Produttori devono anche imparare a rischiare. Grazie Massimo. Professore? Meno male che ci sono gli ascoltatori che mi difendono da secchia dalle sue obiezioni. Io le dico solo: per fortuna che siamo come direbbe orrendamente il nostro amico Prof, io le dico solo pluralisti. Pluralisti. Io dico solo che i Sopranos sono stati, per questa contemporaneità nostra, l'equivalente, cito il Guardian ed altri, di Roth, Updike e insomma e grandi scrittori. Sopranos, capisci? Sono siciliani. Quindi... la forza. Quindi c'è un problema, secondo me, di immaginario. Vabbè, c'è un problema economico, secondo me, più che di immaginario. Molto, c'è un molto problema economico di sostegno, sì. Lo dicevo prima, sì. Se la critica fosse meno appiattita, la critica che adesso non voglio far polemiche, ma no, mi sembra che la sta facendo, non so, grandi giornali, non so da quale critica. Decine di articoli sulla finale di X Factor e nessuno si è accorto di queste due fiction che io ho segnalato. Fatemi fare un po' di polemica con la critica, o pochissimi hanno segnalato in qualche breve articolo queste cose, mentre i grandi prodotti finiscono in prima pagina. Professore, bisogna che la critica si dia una svegliata. Ma la critica senza nome mi piace. Professore, Piera dice che il canone era su Rai 5, il flauto magico. Lei se l'è perso? C'era anche lì perché Rai 5 sta cambiando pelle, sta facendo un nuovo tipo di palinsesto. C'ha un nuovo direttore molto attento. E ieri sera c'era un flauto magico che ho anche rivisto in parte. Bene, perché valeva la pena. E allora la ringrazio, professore. Grazie a voi. Oggi con la storia di Mix 24 vi raccontiamo appunto la storia di un artista molto speciale, molto particolare, originalissimo della musica italiana. Storia curata come sempre da Marina Milone e Fred Buscaglione. A seguire un'intervista con Stefano Bollani. Pubblicità.